24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione di 24 ore in Europa, il blitz di Tolosa con la morte del killer della scuola ebraica, la riforma del mercato del lavoro in Italia e a Copenaghen il vertice europeo sulle città del futuro. Partiamo dunque dalla Francia. Un gruppo legato ad Al-Qaeda ha rivendicato la strage nella scuola ebraica di Tolosa. Intanto è finito con la morte del killer, il lunghissimo assedio delle teste di cuoio e ora, come ha detto il presidente francese Sarkozy, si cercano eventuali complici. Il servizio. La Francia non è colpevole, la Francia non è razzista, lo ha detto in relazione alla strage di Tolosa Nicolas Sarkozy in serata durante un comizio a Strasburgo. I crimini di Mohamed Merah non sono i crimini di un pazzo, ma quelli di un mostro che non servono a nessuna causa politica o religiosa, ha aggiunto il presidente francese. Intanto dubbi vengono sollevati sulla veridicità della rivendicazione dell'attentato alla scuola ebraica avanzata ieri pomeriggio da un gruppo vicino ad Al-Qaeda, i cosiddetti soldati del califfato. Il centro americano di sorveglianza dei siti islamisti ha infatti rilevato più di un'anomalia nel comunicato pubblicato su internet, tra cui l'errore relativo alla data della strage, indicata in martedì 19, mentre si trattava di un lunedì. E mentre si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Mohamed Merah, ucciso ieri mattina dopo 32 ore di assedio, è già polemica su come sia stata gestita l'operazione. Era una bestia furiosa, si difendono gli uomini delle forze speciali, era pieno d'armi, ci sparava addosso. Il killer, 23enne franco-algerino, era nella lista nera degli Stati Uniti sui sospetti terroristi. Il Wall Street Journal precisa che il giovane era finito nella cosiddetta no-fly list nel 2010 dopo essere stato fermato in Afghanistan. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E apriamo ora un'ampia pagina economica. L'Unione Europea e anche il Fondo Monetario plaudono alla riforma del mercato del lavoro che il premier italiano Mario Monti illustrerà oggi al Consiglio dei Ministri. Il premier Mario Monti rassicura, l'Unione Europea applaude e la politica si divide. Reazioni contrastanti all'impegno del governo per evitare abusi sul licenziamento per motivi economici, anche se ciò, sottolinea Palazzo Chigi, non significa il ripristino del reintegro. Per il PD non è ancora abbastanza e l'ex ministro del welfare, Cesare Damiano, chiede di seguire il modello tedesco. Che prevede che al giudice sia assegnata la facoltà di scegliere fra la reintegrazione del posto di lavoro e il risarcimento economico. Si impedirebbe un atteggiamento eventualmente opportunistico di quelle imprese che intendessero mascherare altre motivazioni di licenziamento. Da parte del PDL invece Fabrizio Cicchitto vuole non cambiare la norma. O i due punti rimangono fermi, oppure se salta quello che è attinente ai licenziamenti per ragioni economiche, è evidente che va in discussione anche la prima parte. E arriva anche il monito della CEI, che spera nella soluzione più ampiamente condivisa. La dignità della persona passa per il lavoro riconosciuto nella sua valenza sociale, dicono i vescovi italiani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La riforma del lavoro in Italia segue a grandi linee il modello tedesco e c'erano anche delegati di Roma nell'incontro a Berlino tra la cancelliera Angela Merkel e rappresentanti sindacali di più paesi europei col segretario generale del DGB tedesco. L'interesse del governo tedesco è rafforzare in modo duraturo crescita e occupazione in Europa, ha commentato la stessa Angela Merkel. E tra i paesi dell'Eurozona che hanno fatto ricorso ad aiuti comunitari c'è l'Irlanda, che per la prima volta dopo 4 anni è tornata a crescere, più 0,7% del PIL nel 2011. Dall'altra parte però nel quarto trimestre si è ripresentata una contrazione del prodotto interno lordo. In Portogallo invece, contro il piano di salvataggio da 78 miliardi concordato con Unione Europea e Fondo Monetario, è stata un'altra giornata di dure proteste, trasporti pubblici bloccati, metro e traghetti fermi, ospedali, amministrazioni a singhiozzo. Si tratta del secondo sciopero generale proclamato contro le misure di austerità decise dal governo. Lo European Systemic Risk Board, il Comitato contro il rischio sistemico nell'Unione, fa sapere che è pronto a chiedere azioni correttive se dovessero vedersi chiari segni di un credit crunch. E di crisi è tornato a parlare anche il presidente della Commissione europea. Per José Manuel Barroso potrebbe essere necessaria una tassa sulle transazioni finanziarie. Un contributo delle banche all'uscita dalla crisi, ha detto Barroso, sarebbe anche una questione di equità. E siamo alla giornata in borsa. I timori sull'andamento dell'economia in Europa e in Cina hanno penalizzato i listini azionari del vecchio continente. Piazza Affari, zavorata dalle banche, ha perso l'1,69% sul FTSE All Share e l'1,7% sul FTSE MIB. I titoli del settore bancario hanno risentito dell'allargamento dello spread tra BTP e Bund sopra i 300 punti base. Maglia nera per il Banco Popolare, meno 4,66%, colpito anche dai realizzi dopo che ieri le quotazioni avevano guadagnato terreno grazie ai conti 2011. I risultati di bilancio hanno penalizzato Mediolanum, meno 4,44%, e soprattutto Mer Tecnimont, che ha fatto segnare la peggiore prestazione dell'intero listino, scivolando del 17,48%. La società ha chiuso il 2011 con una perdita netta di 296 milioni, contro l'utile di 62 milioni registrato nel 2010. Paolo Paronetto da Redcor per Radio 24, il Sole 24 Ore. Andiamo ora a Copenaghen, dove il quinto vertice del Comitato delle Regioni Europee sta mettendo a punto l'agenda in vista del vertice ONU sullo sviluppo sostenibile in programma tra 3 mesi a Rio de Janeiro. Allora colleghiamoci col nostro inviato Gigi Donelli. Sì, Raffaella, proprio Barroso, il presidente della Commissione, che è volato a Copenaghen da Bruxelles in tardo pomeriggio, ha aperto i lavori di questi 2 giorni dedicati appunto alle città europee del futuro, ma in realtà città del presente. Ha insistito sull'esigenza di investire oggi, non domani, sulle città che sono il vero e proprio tessuto sociale del continente. A fare gli onori di casa la presidente del Consiglio appunto delle regioni e delle città europee, Mercedes Bresso, che abbiamo intervistato. Sentiamo. Noi abbiamo scelto Copenaghen naturalmente intanto perché attualmente c'è la presidenza danese, ma anche perché è certamente una città esempio per le nuove politiche urbane e capace di dimostrare come da politiche di rinnovamento urbano possono emergere anche grandi opportunità per l'economia. Se vogliamo vincere le sfide di cui andiamo a discutere a Rio+20, tutte le sfide della green economy, dello sviluppo sostenibile, lo possiamo fare se nelle città si crea un modello di sviluppo sostenibile. E proprio José Manuel Barroso, intervenendo nel discorso di apertura, ha sottolineato la necessità della crescita nell'Unione Europea, ma ha detto non una crescita qualsiasi, bensì una crescita sostenibile e inclusiva, in modo da costruire le basi per una ripresa ecocompatibile e durevole, centrata anche sul sapere e sull'innovazione, quella che, ha concluso, permetterà all'Europa di emergere più unita dalla crisi. Da Copenaghen è tutto, la linea allo studio. Bene, grazie a Gigi Donelli. Noi voltiamo pagina, esprimiamo il nostro profondo rammarico, ma era la cosa giusta da fare. In visita a Roma, il ministro degli esteri britannico William Hague torna sul blitz in Nigeria, costato la vita a 2 ingegneri, un italiano e un inglese. Roma e Londra hanno ribadito però la determinazione a lavorare insieme nella lotta al terrorismo e il titolare della Farnesina, Giulio Terzi, ha annunciato anche l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla pirateria. Soprattutto per vedere come confrontare queste sfide crescenti del terrorismo internazionale e per migliorare considerevolmente il tipo di operazioni che insieme si dovessero ripresentare in futuro. Torniamo a parlare dell'alta velocità Torino-Lione. Da Bruxelles, al termine del Consiglio sui trasporti, il viceministro italiano Mario Ciaccia ha assicurato che c'è la piena garanzia che i lavori della TAV cominceranno nel 2013 e finiranno nel 2023. Nella giornata mondiale dell'acqua l'Unione Europea manda un ultimatum all'Italia. Bruxelles punta il dito contro le istituzioni italiane per il mancato recepimento delle normative europee in merito alla protezione dell'acqua. Se non provvederanno entro 2 mesi, avverte l'Unione, dovranno rispondere davanti alla Corte di Giustizia europea. Una notizia che l'Italia certo non aspettava. Proprio nel giorno in cui Roma ospita l'evento principale della giornata mondiale dell'acqua, nella sede centrale della FAO, con il ministro dell'Ambiente, Clini, e diversi ospiti internazionali. L'Italia, rileva Bruxelles, non ha trasposto la direttiva europea entro la scadenza prevista di dicembre 2003 e quando l'ha fatto, secondo un'analisi del 2009 della Commissione europea, ha mantenuto carenze e problemi di non conformità. In particolare non ha raggiunto gli obiettivi di buona salute dei bacini fluviali e non presenta un registro aggiornato delle aree protette dalla direttiva. Per quanto riguarda le acque sotterranee, non ha ancora fornito mappe con i quantitativi disponibili e con i livelli di sostanza chimica presenti. Ce n'è abbastanza, secondo l'Europa, dunque, per far scattare la seconda fase della procedura di infrazione, che rischia di portare l'Italia davanti alla Corte europea. Bruxelles condanna il golpe militare in Mali e sollecita elezioni il più presto possibile, come ha detto il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Catherine Ashton. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.